Per i suoi occhi bianchissimi, per le sue membra limpidissime, io vado cercando la gloria. Per le sue membra dolcissime, per i suoi occhi rapidissimi, io vado cercando gente che nasconda armi nella fratta. Per i suoi occhi bianchissimi, per la sua pelle lievissima, per i suoi occhi furbissimi, io vado cercando gente che nasconde. Per i suoi occhi leggerissimi e per la sua bocca fortissima, io cerco gente fortissima che nutra me e lui insieme nella notte fra le bianche ali degli angeli fortissimi, dolcissimi, leggerissimi.